Finarte. Valeria Novellini, che cosa faceva questa società? Cosa le è successo? Finarte Casa d'Aste è probabilmente la casa d'aste più conosciuta nel mercato italiano. Che cosa le è successo? Le è successo banalmente quello che è successo in realtà a tutte le case d'aste mondiali. C'è stata una crisi del mercato dell'arte, sia per la congiuntura economica, sia per il fatto che molte opere avevano raggiunto livelli di prezzo ritenuti ed effettivamente sopravvalutati. Risultato, c'è stata una grossa contrazione dell'attività. Però, mentre le grandi case d'aste internazionali, si veda Christie e Sotheby's, hanno iniziato a evidenziare un recupero nel 2010, per quanto riguarda Finarte questo recupero ancora non si è verificato. Che cosa è successo? Naturalmente si sono avuti grossi contraccolpi per quanto riguarda i risultati di bilancio, tant'è vero che a questo punto la società è giunta ad avere un patrimonio netto negativo. Per questa ragione il 30 di agosto il titolo è stato sospeso a tempo indeterminato dalle contrattazioni di borsa. Allora, questo è un caso abbastanza anomalo, nel senso che al momento Finarte Casa d'Aste non è sottoposta ad alcuna procedura concorsuale, inoltre prosegue la sua attività, tant'è vero che da settembre a fine 2010 sono programmate 9 aste, però il problema è che avendo un patrimonio netto negativo sarà necessario ricostituirlo. Per è questo, come se ogni azione in sostanza non avesse più un valore sottostante. Esatto, in pratica è così. In pratica è stata già convocata un'assemblea degli azionisti per il 14 e 15 ottobre, però siccome non vi è la certezza assoluta che tutti i principali soci decidano di aderire a questa ricapitalizzazione, di fatto al momento la situazione è preoccupante.